America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Donald Trump ha scelto sarà Rex Tillerson il nuovo segretario di Stato americano dopo un lungo periodo di interviste, prima con Rudy Giuliani, poi con Mitt Romney, poi vari altri. A sorpresa, già nei giorni scorsi è emerso tra i favoriti l'amministratore delegato della Exxon Mobil, un uomo d'affari, una vita passata alla vecchia Esso, dove ha cominciato come giovane ingegnere. Tillerson conosce tutti i leader del mondo, ha detto Trump in uno dei suoi tweet, e questo mi dà sicurezza. Vero, Tillerson ha anche legami forti con Vladimir Putin, cosa che non aiuterà il processo di conferma che si terrà al Senato. È preparato in diplomazia e storia? Irrilevante, dice Trump, quanto si deve negoziare, non c'è niente di meglio di un uomo d'affari. Ma ieri il presidente eletto non ha fatto notizia soltanto con la scelta del nuovo segretario di Stato. Sentiamo. President-elect on Twitter blasting the fighter jet program's cost as out of control. That tweet taking its toll on the F-35's prime contractor, Lockheed Martin. Ecco, avete sentito, dopo aver minacciato la Boeing con la cancellazione dell'ordine per il nuovo Air Force One, ieri il presidente eletto ha puntato il dito contro Lockheed Martin, attaccando questa azienda, che è uno dei più grandi fornitori del Pentagono, perché sta spendendo troppo nel nuovo avanzatissimo cacciabombardiere F-35. Insomma, c'è un personaggio molto interessante in Donald Trump che va esplorato al di là delle notizie. E proprio l'altro giorno sono stato alla presentazione di un libro, The Italian Dream, un viaggio fatto di racconti, ricordi, fotografie nell'Italia del vino, scritto appunto da Gelasio Gaetani. Ed è emersa una conversazione molto interessante proprio su Donald Trump. Buongiorno Gelasio. Buongiorno e grazie. Happy to have you, come si dice. Grazie di avermi invitato alla trasmissione. Ecco, allora, intanto complimenti, perché insomma il libro è anche piuttosto pesante, un volumone massiccio. E beh, è un libro grande, pesante, perché è un viaggio attraverso tutta l'Italia del vino, e per percorrerlo ci abbiamo messo quasi 2 anni, e in questi 2 anni abbiamo collezionato incontri, fotografie, ricordi, personaggi. È stato un po' riscoprire la mia vita, rifare uno storyboard di quella che è stata la mia, che è ancora la mia esistenza in questo settore, il mondo del vino italiano. Ecco Gelasio, infatti, però io oggi qua non ti voglio come mio ospite, come esperto di vino, ma ti voglio come commentatore politico. Certo, se ecco, riesco. No, allora raccontiamo perché. Allora, che succede? Che Gelasio, che ha passato vari anni a New York, aveva un fratello che conoscevo bene, che si chiamava Roffredo, che purtroppo è mancato, che era diventato molto amico di Donald Trump, ed era diventato molto amico di Donald Trump perché? Perché aveva cominciato una liaison con Ivana Trump dopo che i due si erano separati. E dunque Gelasio, arrivando a New York, ha avuto la possibilità, come dire, di entrare nell'inner circle di Donald Trump. E allora, siccome molti mi dicono, ma tu prima parlavi sempre di Hillary, non parli di Trump, invece non è vero, io ho sempre raccontato anche di storie di Trump, e quindi qui cerchiamo di raccontare ai nostri lettori, un ritratto un po' più intimo di questo signore che sarà il presidente degli Stati Uniti d'America. Intanto, Gelasio, mi sembra che ci fosse un rapporto molto amichevole anche con la ex moglie, con Ivana, insomma Roffredo vedeva Donald Trump tutto il tempo. È vero, Donald Trump, con cui io ho avuto, grazie a Roffredo, dei rapporti di amicizia, non avevo rapporti di business. Mi ricordo che aveva questo senso della famiglia così forte, tanto che era amicissimo e protettore quasi di Ivana, nonostante fossero separati. E ricordo anche al matrimonio di Ivana con un italiano che si chiamava Rossano Rubicondo, un ragazzo simpatico. Però lui ha organizzato una bellissima festa. E lui è Donald. Donald ha organizzato. Quindi Donald ha organizzato la festa di matrimonio della sua ex moglie con. Sì, con Rossano. E ricordo che c'è stato anche un buffo discorso del figlio di Donald e di Ivana, che ha dato il benvenuto a Rossano di far parte della famiglia Trump, però doveva non far soffrire la mamma, perché loro, essendo costruttori, avendo grande dimestichezza con il cemento, se lui avesse fatto soffrire la mamma. Sapevano come vendicare. Senti, sì, ma raccontiamo un momento anche Roffredo, perché tuo fratello è stato un personaggio straordinario a New York, arriva nella New York ruggente, quella degli anni, sì, 80, primi anni 80, lui era anche un pugile, però poi si mette a fare lo scaricatore di porto, cioè lui letteralmente diceva vado al mattino, vado all'alba alle 5 a scaricare è vero, porto. È vero, era un, insomma ha avuto una vita... Per me è buffo perché essendo, venendo noi da una vecchia famiglia, insomma, abbiamo una storia, insomma, di vecchie cose lunga in Italia, nessuno capiva come Roffredo potesse fare queste cose. Invece era arrivata a New York con pochi soldi, quindi la mattina andava a fare, siccome voleva allenarsi, allora per lui andare a fare lo scaricatore, a scaricare le casse al mercato, all'alba, era una maniera di, invece di andare in palestra, si allenava in quella maniera. Poi Roffredo è diventato un concessionario della Ferrari, ha fatto, certo, ha avuto la vera storia americana, l'American Dream, vero sogno Dream. Americano, esatto, sì, sì, è arrivato a scaricare al porto e poi è finito con la Ferrari e con, certo, con beh, poi ha avuto tanti incontri, ha avuto questa amicizia con l'avvocato Agnelli, queste donne molto belle, questi amici, per cui poi alla fine è diventato un concessionario di Ferrari a New York, a Boston. E io devo dire che quegli anni che ho vissuto a New York con Roffredo sono stati anni bellissimi, perché ricordo feste, Ferrari, donne meravigliose. Ecco, Ferrari e donne meravigliose che naturalmente Trump apprezzava molto. Per che cui Trump c'era... apprezzava molto ed era sempre insieme a Roffredo a queste feste. Tutti sanno che una delle grandi passioni di Trump sono le donne, non ci vedo niente di male in tutto questo. Poi sono uscite tutte queste storie che dava i pizzicotti o baciava tutte le ragazze che incontrava, ma anche quello non... Lo facciamo tutti da sempre. Io se mia moglie mi vede magari mi cazzia, però insomma. Per chiudere, tu hai conosciuto Trump. Allora la domanda è, sarà un buon presidente? Ma te lo chiedo non solo dal punto di vista politico, perché un po' il presidente è un pater familias in fondo, no? Tu l'hai visto in azione anche nel privato. E dunque? Ma credo che lui è un uomo con le qualità e i difetti che ha un uomo con un certo pelo sullo stomaco che è riuscito a fare cose importanti nella sua vita, per cui penso che sicuramente potrebbe fare delle cose buone. Credo che se si contorna di persone giuste, non è uno stupido, direi anzi che è un uomo intelligente, nonostante come lo hanno descritto, quindi io sono molto positivo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me i microfoni di America 24, Gelasio Gaetani, D'Aragona Lovatelli. Gelasio, che canzone scegliamo? A chi la dedichiamo? Cosa ti viene in mente? Ma visto che abbiamo parlato di quell'America bellissima degli anni Ottanta, vissuta con mio fratello Roffredo, con Donald Trump e con un mondo, insomma, un sogno americano, mi viene in mente Private Dancer, che è una canzone bellissima di Tina Turner, e la dedicherei proprio a mio fratello Roffredo, perché i ricordi che ho di New York di quei tempi sono forse fra i più bei ricordi della mia vita. Tina Turner, Private Dancer, ai tempi dello Xenon e di Studio 54. Well, the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!